Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Oggi sono a Gerusalemme perché domani è Pasqua e sono venuto a vedere un restauro eccezionale, davvero eccezionale, perché si tratta niente meno che dell'edicola, o meglio del tempietto, che racchiude la grotta dentro la quale la tradizione vuole sia stato sepolto Gesù Cristo dopo la morte e da lì sia gloriosamente risorto. È un luogo quindi importantissimo per la fede di miliardi di persone, ma pensate, dal punto di vista artistico non aveva nessun valore, perché questa edicola venne costruita grosso modo al tempo dei crociati, e quando i pellegrini andavano in Terra Santa si portavano a casa dei piccoli modellini di legno o di avorio di questa piccola edicola dentro la quale appunto avevano venerato la tomba di Cristo. Questa edicola antica non esiste più, perché la fede dei pellegrini portava molti ceri, e i molti ceri hanno portato anche molti incendi, e in uno di questi terribili incendi nel 1810 la tomba di Cristo letteralmente andò in fumo. Bisognò ricostruire l'edicola, e questa edicola venne costruita da un architetto greco nel 1810. L'edicola ha subito moltissimi danni anche per i terremoti, ma soprattutto per cattivi restauri. Pensate che nel 1947 il mandato britannico, gli inglesi che governavano la Palestina, ingabbiarono il Santo Sepolcro con delle travi terribili, anche brutte da vedere, per tenere in piedi questo edificio. Queste travi sono arrivate fino a oggi. Oggi, domani, sarà la prima volta che i pellegrini potranno vedere il Santo Sepolcro completamente restaurato. Tutte le lastre sono state smontate e restaurate, e si è trovata la viva roccia di questa grotta così fatidica nella quale la tradizione vuole fosse deposto il corpo di Cristo. Oggi, naturalmente, è stato tutto ricostruito. Possiamo fare quello che vogliamo. L'unica cosa che non possiamo fare è accendere un cero per non mandare in fumo un'altra volta tutto il lavoro di restauro svolto.